Storie italiane. Tremotino. C'era una volta un piccolo regno situato ai margini di una foresta. La leggenda narra che nella foresta vivesse uno spirito maligno, ma i sudditi di quel regno vivevano felici sotto la guida di un giovane re saggio. Nel villaggio viveva un mugnaio insieme alla figlia. Ella era molto bella e affascinante. Il mugnaio era un chiacchierone e aveva l'abitudine di esagerare tutti i suoi racconti. Il mugnaio aveva ingannato molte persone, perciò i sudditi stanchi si rivolsero al re. Il re decise di punire il mugnaio, quindi lo chiamò. Mia cara maestà, grazie per avermi concesso questo onore. Dal momento che non sa niente su di me, mi permetta di parlarvi della mia cara figlia e di me. Prego, vada avanti. Sua maestà, ho una figlia che è la più bella ragazza del mondo. È sorprendente, riesce a trasformare la paglia in fili d'oro. Ha un talento sorprendente. Se la vostra figlia è brava come lei afferma, portatela al mio castello, così che io possa metterla alla prova. Sì, certo! Certo, mia maestà! Il mugnaio tornò a casa e raccontò a sua figlia l'accaduto. Papà, ti ho sempre detto di non mentire a nessuno! Ora siamo nei guai per questa menzogna! Il mugnaio rimase in silenzio e si vergognò. Perciò andarono insieme al castello per risolvere il problema. Oh, benvenuto, signor mugnaio, benvenuta, fanciulla. Tu sei bella come tuo padre ti ha descritto. Spero che tu sappia tramutare la paglia in oro. Cerchiamo di non perdere tempo. Vieni con me. Il re la condusse in una stanza che era piena di paglia e le diede una ruota e un fuso. Ora mettiti al lavoro. E ricorda, se nelle prime ore dell'alba tu non avrai mutato la paglia in oro, tu e tuo padre sarete messi a morte. Restate di guardia. Assicuratevi che non scappi. La figlia del mugnaio non sapeva cosa fare. La sua angoscia aumentava così tanto da scoppiare a piangere. All'improvviso una luce brillante illuminò la stanza e tutto a un tratto apparve uno strano folletto. Buonasera, figlia del mugnaio. Dimmi, perché piangi? Oh, devo trasformare la paglia in oro e sono nei guai, non so proprio come riuscirci. Se mi regali qualcosa, posso farlo io al tuo posto. Posso darti la mia collana? Il folletto prese la collana e si accomodò davanti al fuso. E gira, gira, gira! Fece tre giri e magicamente la bobina si riempì. Prese altra paglia e gira, gira, gira! Fece tre giri e la bobina si riempì. E così andò avanti fino al mattino. Tutta la paglia era stata affilata e tutte le bobine erano piene di fili d'oro. Grazie, piccolo folletto! Posso sapere chi sei e come ti chiami? Il piccolo folletto rise e scomparve in un istante. Al sorgere del sole il re entrò e quando vide l'oro si stupì. Oh mio Dio! Pensavo che tuo padre così vanaglorioso mi mentisse. Fanciulla, ora va e riposati. Ricorda, ci vedremo questa sera. La ragazza pensò che il re, per ringraziarla, l'avrebbe lasciata andare. Ma la sera, l'avido re la condusse in un'altra stanza piena di paglia, molto più grande della stanza precedente. Se veramente ami tuo padre come dici, questa sera devi tramutare in oro tutta questa paglia. La ragazza non seppe cosa fare, così scoppiò a piangere. Il piccolo folletto riapparve nella stanza. Smetti di piangere, fanciulla! Dammi un regalo anche stasera! Trasformerò per te la paglia in oro! La ragazza ci pensò su e notò l'anello d'oro che aveva al dito, l'ultima cosa preziosa che poteva offrirgli. Prendi questo anello che ho al dito. Il piccolo folletto sfilò l'anello e cominciò a girare velocemente la ruota. Il mattino seguente, tutta la paglia era diventata scintillante oro. Grazie mille, piccolo folletto! Posso sapere chi sei, per favore? Il piccolo folletto si mise a ridere e scomparve. Il re entrò e si rallegrò alla vista di tutto quell'oro. Oh, cara! Tu sei un dono per il nostro regno! Non ho parole per apprezzare il tuo operato. Adesso va e riposati. Ci rivedremo questa sera. Passato il tramonto, il re decise di portare la ragazza in una stanza ancora più grande e piena di paglia. Questa paglia deve essere filata in una sola notte. E se ci riuscirai, ti prometto che tu sarai mia moglie. E sarò per te il marito migliore di tutto il mondo. Non appena la ragazza fu lasciata sola, il piccolo folletto apparve per la terza volta. Che cosa mi dai se filo per te la paglia anche questa volta? Non ho più niente da darti. Ok, va bene. Non piangere. Allora mi devi promettere che mi darai il tuo primo figlio, visto che sarai incoronata regina. Ella non aveva altra scelta che dire di sì. Promettimi che non ti dimenticherai della parola data. Sì, te lo prometto. Il piccolo folletto cominciò a filare per tutta la notte molto velocemente. Tutta la paglia era filata in oro. Quando terminò il suo lavoro, rise e scomparì immediatamente. Il mattino seguente il re trovò tutto il lavoro fatto secondo il suo grande desiderio. Oh, cara, ti sei mostrata perfetta. Come promesso, domani ci sposeremo. E così ella diventò la regina. L'anno successivo venne al mondo una bambina, ma dimenticò la promessa che aveva fatto al folletto. Un giorno, quando era sola nella sua stanza, improvvisamente il piccolo folletto apparve magicamente. Hai dimenticato la tua promessa, mia regina? No! No, io mi ricordo ancora, ma io amo così tanto la mia bambina. Posso chiederti un piccolo favore? Ora sono la regina. Mi puoi chiedere tutto quello che vuoi al posto della mia bambina. Posso darti tutto quello che desideri. No, io preferisco qualcosa che viva. Non voglio tutti i tesori del mondo. Oh, piccolo folletto, ti prego per favore, ti prego lascia la mia bambina, lasciala stare, ti prego. Il piccolo folletto ebbe pietà di lei, a condizione però che lei indovinasse il suo nome. Io ti darò 3 giorni di tempo, se tu alla scadenza non indovinerai il mio nome, la tua bambina resterà con me. Grazie, piccolo folletto. Indovinerò il tuo nome, certamente. Va bene, mia regina. Tornerò domani. La regina passò tutta la notte a pensare ai nomi che il folletto potesse avere. Il giorno dopo mandò un messaggero a chiedere in lungo e in largo tutti i nomi che si possano conoscere. Il piccolo folletto ritornò. Quindi, hai indovinato il mio nome? Sì. Il tuo nome è... Gaspar? Questo non è il mio nome! E allora il tuo nome è... Melchior? No, non lo è! Baltasar? No! La regina lesse tutti i nomi che conosceva e sciorinò i nomi dell'intera lista data dal messaggero. Ma dopo ogni nome, il folletto le rise in faccia, dicendo sempre di no. Per oggi basta così. Ritornerò domani. Preparati. Il secondo giorno, la regina inviò il suo messaggero nei regni vicini per cercare i nomi più insoliti e singolari. Il piccolo folletto la sera ritornò e la regina era pronta con la sua lista. Allora ti chiami Costanzo? Quello non è il mio nome. Paolo? No, non lo è. Vercingetorige? No. La regina sfogliò l'intero elenco, ma dopo ogni nome il piccolo folletto disse di no. Domani è l'ultimo giorno, mia regina, e dubito che sia possibile salvare la tua bambina. La regina era molto preoccupata. Giunse il terzo giorno, chiese al suo messaggero se sapesse un nome insolito. Mia regina, non sono stato in grado di trovare un nome, ma attraversando i boschi sono arrivato in cima alla collina e nelle vicinanze c'era una piccola casa dove era stato acceso un falò e intorno al fuoco un piccolo folletto ballava. Saltava su una gamba e cantava. Oggi son qua, domani son là. È meglio per me avere la figlia del re. Nessuno lo sa come mi chiamerò, perché il mio nome è Tremotino Ole. Va bene, grazie. Non immagini quanto tu sia stato di grande aiuto. La regina subito donò la sua collana al messaggero come ricompensa. Dopo qualche ora, il piccolo folletto riapparve. Dimmi, mia regina, secondo te qual è il mio nome? Ti chiami Jack? No! Allora ti chiami Harry? Allora forse il tuo nome è Tremotino! Chi diavolo te l'ha detto? Quale diavolo te l'ha detto? Furibondo, colpì a terra così forte il suo piede destro da mandare in frantumi il suo ginocchio. Poi afferrò il piede sinistro con entrambe le mani e con una tale furia spezzò la gamba in due. Questa fu la triste fine del malvagio Tremotino. La regina visse felice con la sua bambina insieme al suo re.